Mango Tart legge Manacled di Sen Lin Yu. Capitolo 19. C'era un po' di... C'era qualcosa che non va, pensò Hermione mentre veniva spinta contro la siepe e le veniva strappato il vestito. Freddo, l'aria fredda su di lei, i denti sulla gola. Faceva male, non le piaceva. Cercò di allontanarsi, ma le sue mani vennero spinte bruscamente da parte e poi sentì i denti contro il suo seno un attimo prima che la mordesse. Forse stava piangendo, pensò. C'erano delle dita tra le sue gambe e la penetravano, la punzecchiavano violentemente. Cercò di chiuderle, ma qualcosa si infilò tra di esse, quindi non poté. Non pensava, non doveva. La siepe le graffiava la schiena. Le dita continuavano a scavare dentro di lei e i denti continuavano a morderle le spalle e i seni. E poi era terra. Poteva sentire la ghiaia del sentiero sotto le mani. Piccole rocce affilate e fredde. Qualcosa che non voleva. Stava per succedere. Aveva appena... Non era sicura di cosa. Aveva a che fare con Malfoy. Un uomo era inginocchiato tra le sue gambe. Montague. Lei lo fissò, sbalordita. Contorse le dita, artigliando la ghiaia, si chinò verso di lei. Il suo viso era molto vicino al suo. Forse stava per dirle un segreto. Qualcosa le stava pungolando tra le gambe. Sentiva che avrebbe dovuto sapere cosa, ma non riusciva a ricordare. Qualcosa che non doveva succedere. Un segreto, da Malfoy. Ma non voleva. Se avesse avuto un segreto, Malfoy l'avrebbe saputo. Lui era sempre nella sua testa. Cercò di dirlo all'uomo, ma invece pianse soltanto. Poi, all'improvviso, l'uomo non c'era più e c'era un forte rumore di qualcosa che andava in frantumi. Si voltò e trovò l'uomo schiacciato contro il muro del Manor. Malfoy lo stava prendendo a calci così violentemente che sentiva il rumore di qualcosa che si rompeva. Si sedette e guardò. Malfoy prese l'uomo per la gola e lo tirò su per il muro fino a che non furono faccia a faccia. «Come osi! Pensavi di farla franca, Montague?» «Non sembrava che ti importasse di averla, Malfoy», raspò Montague. «Ho dato per scontato che non ti dispiacesse condividere, visto il modo in cui hai lasciato Astoria fuori a giocare. La sangue sporco doveva essere mia, hai saltato la fila». Sono stato io a catturarla. Lei era mia. Non sarà mai tua. Malfoy sogghignò mentre lo pugnalava ferocemente e gli squarciava la camicia e lo stomaco. Senza esitare né abbassare Montague da dove lo teneva, infilò la mano nella sua cavità addominale e iniziò a tirare fuori gli organi, avvolgendoseli intorno al pugno. Montague urlava e si dimenava. Malfoy tirò fuori una manciata di intestini, tanto da farli luccicare alla luce della luna. «Se ti rivedo ancora, ti strangolo con questi», disse Malfoy con una voce mortalmente calma. Poi lasciò andare gli intestini in modo che gli pendessero dal corpo come catene da orologio. Malfoy si ripulì il sangue e gli altri fluidi dalla mano mentre lo guardava barcollare via. Piagnucolando e singhiozzando e cercando di rimettersi gli intestini nello stomaco. Si voltò di nuovo verso Hermione. Aveva il viso bianco. «Idiota, perché sei uscita stasera?» Hermione si sedette placidamente sulla ghiaia e lo fissò con gli occhi spalancati. Pensava di dover dire qualcosa, ma non era sicura di ricordare cosa fosse. «Qualcosa su Malfoy», pensò. Questo è quello che intendeva dire all'uomo, Montague. «Malfoy viene sempre per me», sussurrò. Lui la fissò, la mascella bloccata e i pugni serrati per diversi secondi prima che sembrasse inghiottire qualcosa. «Cosa ti ha fatto?» disse a bassa voce, inginocchiandosi accanto a lei. Provò diversi controincantesimi su di lei prima che improvvisamente uno funzionasse e poi, come acqua ghiacciata, la realtà le precipitò addosso. Un singhiozzo strozzato le uscì dalla gola e si avvolse le braccia intorno. Aveva il vestito a brandelli e poteva sentire i segni dei morsi su tutto il corpo. Non riusciva a smettere di tremare. Malfoy era inginocchiato accanto a lei, completamente inespressivo. Allungò lentamente la mano e le prese il braccio. «Andiamo a darci una ripulita». Con uno schiocco riapparvero nella sua stanza e lui la spinse a sedersi sul bordo del letto prima di girarsi e andare nel bagno adiacente. Ci fu un lungo silenzio prima che lui riemergesse, diversi minuti dopo, portando una bacinella e un panno bagnato che le porse. Hermione smetteva e continuava a singhiozzare a intervalli, cercando di non piangere o iperventilare. Malfoy si voltò e guardò fuori dalla finestra mentre lei cercava di asciugare tutta la ghiaia e lo sporco attaccati al sangue dei morsi che aveva addosso. Alcuni erano così profondi che erano grandi mezzelune piuttosto che segni di denti. Poteva sentire il sangue che le scorreva a fiotti lungo il torso. Le tremavano così tanto le mani che continuava a farsi cadere il panno in grembo. Sentì un sibilo di irritazione e la mano di Malfoy strappò improvvisamente il panno dalla sua. Si rannicchiò. «Non ti farò del male», disse lui con voce tesa mentre si sedeva accanto a lei sul letto. Allungò lentamente la mano e la prese per le spalle, girandola verso di sé per valutare il danno. Strinse la mascella mentre la fissava. Muovendosi lentamente, come se lei fosse un animale dispettoso, iniziò dalle spalle. Pulì leggermente il sangue e poi mormorò gli incantesimi per guarire le ferite. Cercò di non trasalire ogni volta che la toccava. Lavorò sulle spalle e poi sul collo prima di passare alle ferite peggiori, raggruppate sui seni. Premette le labbra in una linea stretta mentre iniziava a guarirle. Alcune erano così profonde e lacerate che gli ci vollero diversi incantesimi per sistemarle. La sua espressione era clinica e intenta mentre lavorava. Hermione lo fissò, ancora incapace di controllare il tremore. L'aveva a malapena toccata fino ad allora, a parte il contatto minimo quando aveva tentato di ingravidarla. Le uniche altre volte che l'aveva toccata erano state quando le aveva impedito di gettarsi dal balcone o quando l'aveva fatta materializzare. Lavorò in modo efficiente, poi si sedette e distolse lo sguardo da lei. «Da qualche altra parte?» chiese. «No», disse lei con voce tesa, tirandosi addosso il vestito maciullato e abbracciandosi. Lui la guardò per un momento, come se stesse valutando se stesse dicendo la verità o meno. Poi fece sparire la bacinella di sangue e acqua e si alzò. «Ti farò mandare una pozione calmante e una pozione per dormire per la prossima settimana», disse. «Sono sicuro che hai sentito che sarò via per i prossimi giorni. Dovresti rimanere nella tua stanza fino al mio ritorno». Hermione non disse nulla. Si limitò a stringere il vestito e a fissare il pavimento. Poteva vedere le sue scarpe. Poi si voltò e uscì dalla stanza, chiudendosi la porta alle spalle. Continuò a stare seduta immobile per diversi minuti. Poi si alzò e andò in bagno. Lasciò cadere l'accappatoio e il vestito mentre guardava l'acqua riempire la vasca. Lasciò i vestiti sul pavimento e sperò che gli elfi bruciassero tutto piuttosto che ripararli e rimandarglieli indietro. L'acqua divenne rossa per tutto il sangue residuo che aveva addosso e lei la svuotò e la riempì di nuovo, strofinandosi fino a quando non sentì la pelle irritata. Riusciva ancora a sentire i denti di Montagu che affondavano in lei. La pelle che Malfoy aveva guarito era ancora nuova e ipersensibile. Lottò contro la tentazione di graffiarla. Si sedette nella vasca da bagno e pianse finché l'acqua non diventò fredda e non iniziò a tremare. Uscendo dalla vasca e stringendosi un asciugamano addosso, camminò esitante verso il letto. Due fiale di pozioni erano apparse sul comodino. Si scolò la pozione del sonno senza sogni e si infilò nel letto. La mattina seguente ci rimase. Non c'era motivo di alzarsi. Non voleva muoversi, non voleva pensare, voleva solo un'altra dose di pozione. Per quanto ci provasse, non riusciva più a dormire. La prese e sentì il nodo dell'orrore nel suo stomaco sciogliersi debolmente mentre giaceva raggomitolata nel suo letto. Non riusciva a smettere di pensare. La sua mente non si calmava mai. C'erano sempre realizzazioni, sensi di colpa e lutti. Qualcosa su cui ossessionarsi e preoccuparsi. Montagu. Non voleva nemmeno pensare a Montagu. C'era poco della notte precedente che non fosse orribile. In qualche modo aveva dato per scontato che la situazione fosse la stessa per tutte le ragazze del programma, che chiunque le avesse le avrebbe trattate nello stesso modo in cui veniva trattata lei, clinicamente, per lo più lasciate in pace, sforzi di concepimento del tutto non consensuali per entrambe le parti. Ma chiaramente non era questo il caso. Era ovvio a posteriori che le surrogate non fossero mai state concepite in quel modo. La guaritrice Stroud poteva considerare il programma di riproduzione magigenetica come scienza legittima, ma essenzialmente e molto più fondamentalmente era un diversivo. Dava spettacolo per i mangiamorte, ma era anche una tangente. Le surrogate erano schiave sessuali. Si rese conto con una fitta amara che era stata così assorbita dalla sua situazione che non aveva considerato quanto peggio potesse essere per le altre. Era stato chiaramente progettato. Niente reggiseno, niente mutande. Il modo in cui i bottoni dei vestiti si staccavano con il più piccolo strattone. Erano accessibili. I mangiamorte erano tenuti a violentarle nei loro giorni fertili. Ma le istruzioni non avevano fatto alcun riferimento al fatto che il periodo fertile fosse il limite. In qualche modo, essere data a Malfoy l'aveva resa fortunata? Sembrava clinico nell'utilizzarla. Forse era semplicemente perché Voldemort non voleva che venisse troppo danneggiata fino al recupero dei suoi ricordi. Forse non gli era permesso di farle del male, o violentarla come avrebbe voluto. Ma non sembrava così. Non sembrava interessato, non era come se si stesse trattenendo, sembrava sempre desideroso di chiudere con lei, di allontanarsi, era un peso per lui. Era possibile che Lyreev fosse la figura meno crudele del governo di Voldemort? Neanche quello sembrava giusto, non dopo quello che gli aveva visto fare a Montague. Guardarlo mentre se ne stava lì con freddezza a srotolargli gli organi a mani nude era stato terrificante. La praticità, la facilità. Era crudele, una crudeltà che ribolliva appena sotto la superficie, in attesa di essere liberata. Forse lo stupro non faceva per lui. Un pensiero strano, ma il più plausibile che potesse pensare. Odiava toccarla, lo evitava il più possibile. A quanto pareva, Malfoy non era un mostro completo. Non che avesse importanza, niente di tutto ciò aveva importanza, niente di tutto ciò aveva mai avuto importanza. Era lo stesso per la sua realizzazione che Voldemort stava morendo. Rendersi conto che era peggio per le altre ragazze non faceva alcuna differenza. Non c'era niente che Hermione potesse fare. Anche se, per un qualche miracolo, avesse trovato un modo per scappare, il che era di per sé una pura impossibilità, non avrebbe potuto fermarsi a salvare qualcun altro. Doveva correre e correre. Il meglio che poteva fare era cercare di trovare chiunque fosse rimasto dell'ordine e vedere se avevano un modo per salvare tutti gli altri. Ma se ci fosse stato un modo per fare una cosa del genere, sicuramente l'ordine lo avrebbe già fatto. Sicuramente l'ordine non avrebbe lasciato le surrogate per così tanto tempo, se ci fosse stato un modo per salvarle. Non riusciva a pensare a nessuno se non a se stessa. Se aveva le informazioni che Voldemort e Malfoy sembravano credere che possedesse, allora la cosa più vitale che poteva fare era impedire loro di ottenerle da lei. Aveva bisogno di scappare. Non aveva più tempo. Le sembrava un miracolo assoluto che non fosse incinta. Era sicura che dopo la pozione di fertilità sarebbe stata incinta. E una volta incinta, le sembrò di soffocare. Petto e gola compressi. Cominciò a tremare mentre cercava di non piangere. Le sue probabilità di scappare sembravano già infinitesimamente piccole. Una volta incinta sarebbero state praticamente inesistenti e sarebbero diventate sempre più piccole ogni giorno che passava. Non poteva nemmeno camminare attraverso un campo o lungo una strada aperta così com'era. Una fuga con le sfide aggiuntive ed evolutive che una gravidanza avrebbe presentato sarebbe stata impossibile. una volta che avesse partorito, Malfoy le avrebbe strappato il bambino dalle braccia, ammesso che glielo avesse lasciato tenere. Poi l'avrebbe portata da Voldemort, l'avrebbe uccisa. Lei sarebbe stata mangiata dai suoi pitoni e il suo bambino sarebbe rimasto solo nell'orribile casa di Malfoy per essere cresciuto da lui e dalla sua orribile moglie. Gonfiò il petto e, prima che potesse fermarsi, iniziò a singhiozzare così violentemente da soffocare. Anche se fosse scappata, Malfoy non avrebbe mai smesso di cercarla. Non c'era modo di scappare. Ogni idea che le veniva in mente, nessuna si concretizzava. Era come un insetto inchiodato alla tavola. Il Manor era una gabbia impeccabile. A meno che per miracolo non fosse riuscita a convincere Malfoy a lasciarla andare. E semplicemente non c'era modo. Non era nemmeno sicura che lui potesse lasciarla andare anche se avesse voluto. C'era qualcosa nel modo in cui ogni tanto guardava le manette che la faceva dubitare che lui potesse toglierle. Poteva solo ucciderla e stava già progettando di farlo. Rotolò sulla schiena e fissò il baldacchino con disperazione. Non c'era via d'uscita. Non sarebbe mai scappata. Sarebbe rimasta presto incinta e non sarebbe mai scappata. L'ondata di depressione alla fine la fece addormentare. Lasciò a malapena il suo letto per i giorni successivi. Stava guardando fuori dalla finestra quando la porta della sua stanza esplose bruscamente e Astoria entrò a grandi passi con la bacchetta in una mano e un giornale stretto nell'altra. Hermione si alzò rapidamente e Astoria si fermò. Si fissarono per un minuto. Non si era più avvicinata Hermione dalla notte in cui l'aveva condotta nella stanza di Malfoy. Contorse le dita. Doveva essere lì per via di Montague. «Vieni qui, sangue sporco!» le ordinò con voce tagliente. Hermione attraversò la stanza con riluttanza finché non si trovò a pochi passi da Astoria. Il cuore le batteva forte e aveva la sensazione che la conversazione che stavano per avere sarebbe finita male. Era pallida, fragile, vestita e curata in modo impeccabile, ma c'era un senso di disfacimento in lei. Gli orecchini che indossava tremavano debolmente e stringeva gli occhi in due piccole fessure mentre la fissava. «So che sei una ficcanaso! Hai visto questa storia?» le disse, sollevando il giornale in modo che Hermione potesse vedere la foto in prima pagina. Era stata troppo depressa anche solo per guardare la Gazzetta del Profeta dall'equinozio. Lo sondò con lo sguardo e sgranò gli occhi. Sulla copertina del Profeta c'era una foto di Malfoy che sventrava con calma Graham Montague nel mezzo della sala d'attesa del San Mungo. Poté solo fissarla per un momento prima che Astoria piegasse la mano e il giornale a metà. «Devo ammettere», disse lei con una voce di innaturale calma, «che quando ho sentito per la prima volta la notizia che Draco aveva ucciso pubblicamente Graham, ho pensato... «Finalmente se n'è accorto!» Contrasse le labbra e la fissò. «Ho cercato di essere la moglie perfetta quando sono stata scelta!» Continuò Astoria. «La moglie di Draco Malfoy! Non c'era nulla a cui paragonarlo! Il generale più potente dell'esercito del Signor Oscuro! Tutte le altre ragazze erano così gelose!» Naturalmente era tutto organizzato, ma pensavo che alla fine si sarebbe reso conto che ero giusta per lui, che ero una buona moglie. Ho fatto di tutto, sono entrata in ogni consiglio, in ogni associazione di beneficenza. Ero la moglie perfetta, ero perfetta, ma lui non è mai importato. Scrollò le spalle e gesticolò con noncuranza con la mano che teneva la bacchetta. Aveva le unghie dipinte d'argento che catturavano la luce. «La gente non lo sa, ma lui non viveva nemmeno qui. Ci siamo sposati e mi ha lasciato qui, in questa casa. Non mi ha mai fatto fare un giro. Il giorno del nostro matrimonio mi ha portato qui e lasciato nell'atrio. Non si è neanche preoccupato di consumarlo fino a quando non avrei dovuto essere fertile. E poi... una volta che i guaritori hanno stabilito che ero sterile, Draco non è più venuto. È scomparso e basta. Non ho mai saputo dove fosse. Non potevo contattarlo. Pensavo che forse avrei potuto ottenere la sua attenzione se lo avessi fatto ingelosire. Ma non gli è mai importato quello che facevo. Alla fine ho accettato che fosse così. L'amarezza della sua espressione le trasformava il viso in qualcosa di brutto e terrificante. «Ma poi sei arrivata tu!» La voce le tremava di risentimento. «E si è trasferito e ha messo a soqquadro l'intera tenuta per sorvegliarla e assicurarsi che fosse sicura. Ti ha portato a passeggiare e ti ha fatto fare un giro della casa!» Hermione iniziò ad aprire la bocca per far notare che a Malfoy era stato ordinato di fare quelle cose. «Sta zitta! Non voglio sentirti!» disse Astoria bruscamente, mostrandole i denti. Il giornale le si stava accartocciando nel pugno e fumava debolmente. «E poi Graham ha cominciato a prestarmi attenzione!» disse, la voce tremante come se stesse trattenendo le lacrime. «Era così comprensivo!» E mi teneva compagnia a tutti gli eventi a cui Draco non si faceva mai vedere. Voleva vedere tutto quello che avevo fatto e notava tutte le cose che avevo fatto per impressionare Draco. Voleva che gli mostrassi tutto il Manor per vedere come l'avevo decorato. Ha avuto l'idea di una festa di Capodanno qui al Manor e delle cene. E persino una festa dell'equinozio sulla veranda dell'ala nord. È stato molto preciso sul fatto che fosse proprio l'ala nord. Si interruppe e fissò fuori dalla finestra per diversi secondi. Quando ho sentito che Draco aveva ucciso Graham, ho pensato: Draco se ne è finalmente accorto. Prima era solo impegnato, ma poi... Si contrasse. Mi è passato per la mente che Graham mi aveva avvicinata per la prima volta la settimana dopo che la Gazzetta del Profeta scrisse quell'ignobile articolo su di te che vivevi qui. Voleva così tanto venire in questa tenuta piuttosto che andare in un hotel o nella sua casa. Era troppo insistente. Doveva vedere la tenuta, il Manor, tutte le stanze... anche se dovevamo sfondare le barriere per entrare. E mi è venuto in mente che Graham tendeva sempre a sparire durante il Capodanno e i cenoni e la festa in giardino. Scompariva sempre. Astoria rimase in silenzio per diversi secondi. Hermione rabbrividì, incapace di parlare, incapace di chiarire. Sapeva che non avrebbe fatto alcuna differenza anche se avesse potuto. «È stato a causa tua!» disse infine Astoria. «Graham è venuto qui per colpa tua! Draco l'ha ucciso a causa tua! Graham mi stava solo usando! Mi stava usando per arrivare a te!» Astoria gettò il giornale sul pavimento. Le pagine schizzarono sul legno, mostrando Malfoy che uccideva freddamente Graham Montague in un ciclo continuo in bianco e nero. «Draco Malfoy uccide pubblicamente un compagno mangiamorte!» «Perché si preoccupano per te?» chiese Astoria, avvicinandosi a Hermione e piantandole la bacchetta alla gola. «Che cos'hai di così speciale da spingere Draco a trasferirsi qui, in questa casa che chiaramente odia? Perché Graham passerebbe mesi a usarmi per arrivare a te? Perché a qualcuno importa di uno sangue sporco? Perché tutti pensano che tu sia così importante?» Il luccichio nei suoi occhi era maniacale. Lei iniziò ad aprire la bocca e Astoria le diede un forte schiaffo sul viso. «Non voglio sentire le tue spiegazioni!» ringhiò. «Ti avevo avvertito, ti avevo detto di non causarmi problemi!» Le puntò la bacchetta al viso, verso gli occhi. Lei sentì il petto contrarsi e si scostò. «Sai!» disse Astoria in tono tremante, afferrandola per il mento. «Marcus dice che sopporta a malapena di guardare la sua surrogata, perché il buco nella testa la rende un orrore. Forse Draco passerebbe meno tempo ad essere ossessionato da te se tu ne avessi due!» Hermione inciampò all'indietro. «Stai ferma!» le ordinò. Si bloccò e Astoria si avvicinò di nuovo. Malfoy sarebbe arrivato. Malfoy stava arrivando. Malfoy stava arrivando. Malfoy era in Romania. Astoria la afferrò per il mento ancora una volta. «Apri bene gli occhi, sangue sporco!» Lei iniziò a tremare mentre allargava gli occhi. «Ti prego, non... zitta!» disse Astoria con freddezza mentre si avvicinava. Premette la punta della bacchetta contro l'angolo esterno dell'occhio sinistro di Hermione, affondando la punta nella cavità. Le ringhiò in faccia. «Spero di esserci quando Draco ti vedrà la prossima volta!» Anche se mi uccidesse, la soddisfazione ne varrebbe la pena. Hermione cercò di ritrarre il viso e Astoria ritirò momentaneamente la bacchetta per immobilizzarla con un incantesimo, congelandola sul posto prima di infilzare di nuovo la bacchetta al margine del suo occhio. Il dolore stava aumentando. Poteva sentire il bulbo sul punto di essere strappato via. Tremava tutta, ma non riusciva a muoversi. Il suono del suo respiro affannoso tagliò la realizzazione surreale che il volto di Astoria Malfoy poteva essere l'ultima cosa che avesse mai visto. Sentì il suo stesso urlo strozzato mentre avvertiva qualcosa nel suo occhio cedere e la sua visione diventare unilaterale. Improvvisamente ci fu un rumore di smaterializzazione così brusco che il Menor tremò. Astoria sussurrò per la sorpresa, ma non si fermò. «Expelliarmus!» ringhiò Malfoy spuntando dal nulla. La bacchetta che scavava nell'occhio di Hermione svanì e Astoria fu scagliata attraverso la stanza e colpì il muro con uno scricchiolio nauseante prima di cadere a terra. Hermione rimase congelata sul posto con gli occhi aperti, singhiozzando istericamente e immobile dove Astoria l'aveva lasciata. Malfoy si piazzò davanti a lei annullando l'incantesimo di immobilizzazione. Cadde a terra, lui si inginocchiò davanti a lei e le inclinò il viso verso il suo. Era pallido, congelato, e la sua espressione divenne inorridita quando la vide. Lanciò un incantesimo diagnostico su di lei. Dopo un minuto deglutì e fece diversi respiri profondi, come se stesse cercando di stabilizzarsi. «Il tuo occhio è mezzo tirato fuori dall'orbita e hai un profondo taglio nella sclera», disse alla fine. «Quali sono gli incantesimi per guarirlo?» Hermione lo fissò, stordita. Piangeva, contorse il viso mentre si agitava, sentendo le lacrime che si raccoglievano tra le sue dita. Vedeva solo da un occhio e nel sinistro c'era solo una macchia scura. Non riusciva a smettere di piangere e rabbrividire. Sapeva che avrebbe dovuto conoscere la risposta alla sua domanda, ma non riusciva a ricordarsela. Riusciva solo a sentire il punto in cui la bacchetta di Astoria le aveva perforato l'occhio. Non vedeva. Malfoy inspirò bruscamente e la sua espressione si indurì mentre la fissava più intensamente. «Ho bisogno che ti calmi, così potrai dirmi come risolvere il problema», disse. C'era un comando pesante nel suo tono. Soffocò un singhiozzo e cercò di respirare. Voleva chiudere gli occhi, ma non poteva, perché Astoria aveva cercato di tirarne fuori uno. Rantolò più volte cercando di ricomporsi. Poi si costrinse ad abbassare lo sguardo sulla lettura diagnostica ancora visibile sulla bacchetta di Malfoy. Era una guaritrice. Qualcuno aveva un occhio ferito. Aveva bisogno di lavorare in modo efficiente se voleva cercare di preservarne la vista. «Per una sclera perforata», disse con voce vacillante, riportando indietro la mente e cercando di ricordare mentre analizzava la lettura. Malfoy aveva fatto una diagnosi dettagliata. Poteva vedere che il danno era esteso. «Sclera sanentur. Devi dirlo ritmicamente, quasi cantilenandolo, e passa la punta della bacchetta sulla perforazione». Malfoy ripeté l'inflessione e il ritmo e lei gli fece un breve cenno. Procedette a eseguirlo sul suo occhio. Mugolò sommessamente mentre sentiva la puntura iniziare a ripararsi. «E poi, per un occhio sinistro lussato?» disse, con la voce più calma di quanto si sentisse. «È oculus sinister retreo. E il movimento della bacchetta?» Cautamente Semicecamente si allungò verso la mano sinistra di Malfoy e quando lui non si scostò da lei, chiuse le dita sulle sue e gli mostrò il delicato movimento a spirale. «Non farlo troppo in fretta o lo ritrarrai troppo», aggiunse. Malfoy annuì. Hermione sentì l'occhio scivolare di nuovo al suo posto nella testa. La macchia scura era leggermente più luminosa, ma era ancora come guardare attraverso una finestra pesantemente appannata. Lui fece un nuovo incantesimo di diagnosi. «Quanto puoi vedere?» le chiese, inclinandole il viso di nuovo verso di lui, i polpastrelli che premevano leggermente lungo la mascella. Lei alzò lo sguardo e si coprì l'occhio destro con la mano. Aveva il viso a pochi centimetri dal suo. «Sei biondo. Penso... posso dire che sei biondo e se mi sforzo riesco a distinguere occhi e la bocca un po'.» La voce le si spezzò in un lamento e si strozzò mentre ricominciava a piangere. Tolse la mano dall'occhio destro e se la mise sulla bocca mentre lottava per non singhiozzare. «Cos'altro devo fare? Come faccio a ripararlo?» chiese lui. «Il dittamo», disse. «L'essenza di dittamo potrebbe essere in grado di riparare il resto del danno, ma è rara. Potrebbe essere difficile da ottenere in poco tempo.» «Topsy!» L'elfo apparve immediatamente. «Portami l'essenza di dittamo!» L'elfo domestico sparì di nuovo. Le mani di Malfoy rimasero sul suo viso fino a quando i singhiozzi non si attenuarono di nuovo. Poi le allontanò lentamente. «Aspetta qui. Devo occuparmi di Astoria adesso», disse. Hermione annuì e si asciugò il viso, scoprendo che stava piangendo sangue. Guardò Malfoy avvicinarsi, far levitare sua moglie dal pavimento e farla cadere sulla sedia prima di eseguire un incantesimo diagnostico su di lei. Lo squilibrio nella sua vista le rese difficile vedere quando cercò di osservare la lettura dall'altra parte della stanza. Pensò che avesse diverse costole incrinate e una commozione cerebrale. Malfoy guarì le fratture con facilità e poi fissò Astoria per diversi minuti prima di rinnervarla definitivamente.